perché la morte fa parte della vita. Prima della cerimonia religiosa, i parenti butteranno parte delle ceneri di mio suocero Jitendra nel canale dietro al tempio. E poi ci sarà un rito indù in suo onore. Storie di rituali indiani e di finti funerali in una puntata che si intitola Inno alla vita. Chissà cosa teneva dentro a capa, intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi, non se ne fa un altro. Morto Troisi, muore quella bella, serena, antica, dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un Pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Yam o il Log, Nagy, Ek, Az, era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non m'ha mai parlato della pizza e non m'ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro. Ha fatto più miracoli il tuo verbo che quello dell'amato San Gennaro. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie per essere qui. La voce che avete sentito, probabilmente l'avete riconosciuta, insomma non ha bisogno di particolari presentazioni, è la voce di Roberto Benigni. Roberto Benigni, che ormai è una star assoluta ed è conosciuta in tutto il mondo, ha fatto uno dei film forse più belli, quantomeno che sono entrati nella storia della cinematografia italiana, ma anche della cultura di questo paese, insieme a Massimo Troisi, ed era Non ci resta che piangere, di cui tutti si ricordano alcuni passaggi, tra cui ricordati che devi morire, mo me lo segno, ed era appunto Massimo Troisi. Questa commemorazione Roberto Benigni l'ha fatto dal vivo su un palco a Trastevere per un festival che è il Festival del Cinema di Trastevere a Roma nel giugno del 2016, quindi 4 anni fa. Era proprio in occasione della proiezione della versione restaurata di Non ci resta che piangere. Benigni ha in sé la capacità di raccontare meravigliosa, ha in sé la capacità anche di scrivere in poesia, come ha fatto in versi, e qui ricorda a modo suo Massimo Troisi. Abbiamo voluto utilizzare questa poesia e questa commemorazione di una persona che non c'è più proprio per introdurre una puntata molto particolare che si intitola Inno alla vita. So che non è facile. Non è facile soprattutto immaginarlo in un momento come questo, in cui di fatto c'è una malattia che bussa alla porta e che fa paura, e che più che fare paura, come dice ripetutamente Umberto Galimberti, mette angoscia, perché lui dice: la paura è una cosa che tu vedi, è un nemico che sta dall'altra parte, è un'arma che hai puntata di fronte a te, mentre l'angoscia è invisibile, e questo virus ha tutte le caratteristiche di quel tipo di nemico, cioè il nemico invisibile, il cecchino, che spara ma non sai da dove spara, non sai dove si trova. E quindi lui dice: l'angoscia è diversa dalla paura. Ecco, citando Galimberti, perché appunto so che in questo momento è complicato immaginarlo, ma ci sono delle pratiche, ci sono dei rituali, soprattutto in religioni diverse dalla nostra, e la storia che vi racconteremo, la storia di Gioia, parla proprio di quello, parla di una religione induista, in cui la morte è concepita in maniera molto chiara, molto netta, molto elementare, come parte della vita. Che anche questo, so, è molto difficile da comprendere, probabilmente lo è più facile da raccontare, più facile da dire che non da capire, ma le storie che vi raccontiamo oggi vanno proprio in quella direzione, una sorta di celebrazione della vita attraverso il momento forse più cupo, più complesso, soprattutto per le persone che ti stanno vicino, per le persone che sono con te, per i familiari e per le persone appunto che ti vogliono bene. Oggi abbiamo diverse storie da raccontarvi, abbiamo appunto una storia di un rituale induista, abbiamo la storia di un uomo che si credeva morto. Sapete la famosissima scena di quando che è presente in molti film, di quando si finge la propria morte e si va a osservare che cosa accade al proprio funerale. Ecco, più o meno quello, ma non dal vivo, bensì sui social. Ma prima ancora abbiamo una storia a cui tengo tantissimo, perché è una storia che arriva attraverso un messaggio audio ed è una piccola storia di rinascita. Che cosa sono i momenti di rinascita? Li abbiamo immaginati come quei momenti in cui a un certo punto nella tua vita le cose andavano molto molto storte, di botto o gradualmente, e tutti quanti in quei momenti ci sentiamo dannatamente male, ci sentiamo depressi, ci sentiamo in difficoltà. E poi a un certo punto invece, un po' perché magari ci lavoriamo, un po' perché arriva un colpo di fortuna casuale, improvvisamente, pam, ci riapriamo e torniamo a rinascere. Ne abbiamo raccontate alcune, vi chiediamo degli audio in questo caso, non dei testi scritti, degli audio da inviare o al mio profilo Instagram personale in privato, Matteo Caccia, o al profilo Facebook mio sempre, o al profilo Facebook di Linea d'Ombra, dove se si accede nella sezione dei messaggi diretti si può mandare un messaggio vocale, e ce ne sono arrivati diversi. Il prossimo messaggio è un messaggio vocale ed è una storia di rinascita meravigliosa, perché appunto, vi dicevo, ve ne abbiamo raccontate storie di che so, la storia, mi ricordo la storia di Valentina che ci racconta insomma come cambiando università e cambiando prospettiva per il suo futuro lei diventa addirittura e si sente addirittura più bella e diventa più bella. La storia di Jacopo che scopre di avere una malattia che, con la quale convive e grazie alla quale difatti poi di fatto riesce anche a vivere una vita serena. Ma abbiamo anche raccontato la storia di Nicola che ci ha detto che per la prima volta dopo tanti anni ha visto rinascere, cioè ha visto uscire dal letargo la sua tartaruga. Ecco, la storia di oggi è una storia molto divertente che arriva, credo, da una casa romana, a giudicare dall'accento dei protagonisti, ed è un dialogo di fatto. Non è una persona che racconta da solo la storia, ma sono marito e moglie o compagno e compagna che parlano di una rinascita molto particolare. Lo racconta lei, sollecitata da lui, ma lo racconta lei, e parla di una di tornare a fare rinascere piante, legumi e vegetali che sembravano morti. Allora, mi puoi spiegare questa cosa del regrow, per favore, che cos'è? Che vuol dire innanzitutto? Vuol dire ripiantare. Che sarebbe una rinascita. Una rinascita vuol dire che tu pianti di nuovo una cosa invece di buttarla. E tu che hai fatto? Allora, io invece di buttare la fine di un cespo di radicchio, ne ho tagliato un pezzo e l'ho messo a germogliare nell'acqua. Cresceranno delle radici e nel frattempo dal centro ricrescerà la nuova lattughina. E poi lo potremo piantare e avere una meravigliosa pianta di lattuga tutta per noi. Senza zappare la terra, andare nei campi. E la cipolla e la carota che hai fatto? La cipolla, ho tagliato il cipollotto, l'ultimo pezzo di cipollotto, l'ho messo nell'acqua e già dopo poche ore sta ricrescendo il centrale. Quindi noi avremo una piantagione di radicchio e cipollotti dentro casa senza andare a zappare la terra. Una piantagione, una piantina di cipollotti. Ma questo dove l'hai visto? Su internet. Ah. Quindi fai rinascere le piante. Faccio rinascere un sacco di cose, io, amore. E quella cosa dell'ananas? Sulla questione dell'ananas non ci sono ancora arrivata, perché è un po' più articolata, come per l'avocado. Quindi i contadini moriranno di fame adesso? Ma non penso, io penso che a noi potremmo avere approvvigionamento di una cipolla al mese. Se il decreto diventa più restrittivo, una cipolla al mese, una patata e una carota potrebbero tornare utili. Guarda, per fare un brodino vegetale. Se mi riesce questo esperimento, io le faccio l'orto verticale che è un attimo. Brought a big brown bag of them home. I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. try to kick the ball, but my tenny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. Mama, Dad said, sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy, run a lot, do a lot, never be lazy, boy. Da da. I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the name, your favorite vegetable. Sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy, run a lot, do a lot, never be lazy, boy. Sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy, run a lot, do a lot, never be lazy, boy. Sleep a lot, eat a lot, brush 'em like crazy. La prossima storia che vi raccontiamo è una storia di Gioia. Gioia ce l'ha mandata a lineedombra@radio24.it. Gioia vive in Inghilterra, non vive in Italia, ha un marito indiano e la storia racconta di una cerimonia molto particolare. A un anno di distanza dalla morte del suocero, secondo il rituale indù, come ci racconterà tra pochissimo, si effettua una cerimonia che ha tutti gli effetti una festa alla vita. Mettiamoci comodi, questa è la sua storia. Campagna inglese, febbraio 2020. È il primo anniversario della morte di mio suocero e oggi ci sarà una cerimonia speciale in suo onore. Siamo nell'unico tempio indù della regione, situato all'interno di un vecchio ristorante cinese mai decollato. Mio suocero e la sua famiglia, infatti, sono indiani e sono approdati in questa regione del Regno Unito nel 1968. Oggi ci sono circa un centinaio di invitati. Il tempio è stato appositamente ornato per la situazione, anche se alcune decorazioni vecchie legate ad altre occasioni, come uno striscione che dice buon compleanno, campeggiano sulle pareti. Restano lì, attaccate ai muri. Su di un palco sono stati posti un'urna per il fuoco, diversi barattoli di ghee, pezzi di legno e vari strumenti musicali. Dietro il palco, invece, ci sono degli altari indù con statue di campane di varie dimensioni che a mio figlio Luca, che ha 5 anni, piacciono un mondo. La cerimonia si preannuncia lunga e penso che mio figlio debba capirne il significato per parteciparvi pienamente, o quantomeno per non iniziare a saltare sulla testa degli invitati nel mezzo delle litanie. Prima della cerimonia religiosa, i parenti butteranno parte delle ceneri di mio suocero Jitendra nel canale dietro al tempio e poi ci sarà un rito indù in suo onore. Mio marito sta preparando l'urna delle ceneri. Luca sa che suo nonno Dadu è volato in cielo l'anno prima e che oggi ci apprestiamo a ricordarlo. Ma penso che sia buona cosa per lui comprendere meglio che cosa faremo esattamente oggi. Io guardo mio figlio e gli dico con dolcezza: vedi questa scatola? Contiene le ceneri di tuo nonno Dadu. Il suo spirito è nel cielo, ma il corpo è stato incenerito e adesso lo verseremo nell'acqua. Non è la prima volta che gli viene spiegato che quando qualcuno muore l'anima va in cielo e il corpo resta sottoterra o nell'acqua, come in questo caso. Mio marito è inglese, nel senso che lui è nato in Inghilterra, però i suoi genitori sono indiani, quindi loro sono venuti in Inghilterra nel 68. Noi ci siamo conosciuti, io e mio marito, circa 10 anni fa, perché io sono venuta in Inghilterra per studiare all'università, sono venuta per fare un master e poi niente, da allora che stiamo insieme. Quello che viene fatto, c'è stato il funerale al momento della morte e poi un anno dopo c'è una cerimonia in cui vengono ricordati i defunti con diverse preghiere, canzoni. Poi c'erano alcuni amici di mio suocero che hanno parlato di lui, come succede a volte forse anche in Italia, i funerali, certo, ci sono delle persone che parlano della persona che è morta. E poi si mangia molto dopo questo tipo di cerimonie, forse in Italia questo non succede così tanto. C'è stato un gran buffet in cui si è mangiato diverso cibo vegetariano di solito in queste occasioni e così è anche un'occasione per stare insieme alla famiglia e agli amici della persona. Mio figlio Luca mi guarda, non dice nulla. Dopo poco però comincia a saltare di qua e di là molto agitato. Io penso che debba andare al gabinetto, cerco di portarlo verso la toilette, ma lui protesta veementemente. La gente ci guarda. Deve andare in bagno, dico io, per giustificare la scena. Ma Luca urla, no, non devo andare in bagno. Corre dal padre e scoppia in un pianto sconsolato. La realtà di ciò che è avvenuto a suo nonno l'ha appena colpito e io non avevo capito niente. Dopo essere stato consolato da papà, Luca va a sedersi con la nonna mentre la cerimonia ha inizio. La moglie, i figli del defunto e i loro consorti si siedono su un palco insieme a musicisti e all'amministratrice della cerimonia. Il rito è molto suggestivo, i partecipanti sono seduti intorno a un'urna e buttano legno, ghee ed incenso nel fuoco ritmicamente, mentre recitano una litania in sanscrito e intanto la banda suona. Dopo pochi minuti arriva mio figlio, vuole partecipare anche lui. Si siede a fianco di tutti noi, butta il ghee ed il legno nel fuoco, seguendo le istruzioni della sacerdotessa. Canta le litanie insieme a noi. Resta lì per circa un'ora, poi si risiede tra il pubblico. Il suo comportamento è eccellente e siamo felici di ricordarci con lui e gli amici e i parenti di Jitendra che la morte è parte della vita. See the sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away? Try again some other day. These are words we use to say goodbye. These are words you use to say goodbye. Bones crack, curtains drawn on my back, and she is gone somewhere else. I do not know. Time will tell, and I will go. These are febbraio 2020, costa est dell'Inghilterra. È il primo anniversario della morte di mio suocero Jitendra. Le sue ceneri verranno sparse nell'acqua, secondo l'usanza indù. Secondo l'usanza indù, le ceneri dei defunti devono essere sparse nel Gange. Ma da quello che mi dice mia suocera Monashi, ogni tipo di acqua corrente è buona. Si pensa infatti che tutte le acque, prima o poi, passino per il Gange. Ci apprestiamo quindi a celebrare insieme a tutta la famiglia il primo anniversario della morte di Jitendra e a spargerne le ceneri. Mo, la sorella di mio marito, Shuomo, ha affittato una casa con 5 stanze e piscina per l'occasione, nella zona dove abita mia suocera e dove la sua famiglia ha abitato per più di 40 anni, il Suffolk. In questa casa conviviamo per una settimana mio marito, io, mio figlio, mia mamma, mia suocera, mia nuora e suo marito. La convivenza si rivela più facile del previsto ed impariamo un sacco di cose gli uni degli altri. La scelta del luogo dove spargere le ceneri, però, si rivela difficile. Abbiamo due problemi. Per prima cosa, il Suffolk è la zona dove soggiorniamo ed è stata recentemente colpita da una bufera. Il vento non accenna a diminuire e molte delle zone vicino all'acqua sono allagate. In secondo luogo, mia suocera ha quasi 80 anni. È caduta recentemente e cammina solo con l'aiuto di un carrellino. La zona dove spargere le ceneri deve essere accessibile per forza. Mio marito Shomo ed io ci mettiamo alla ricerca dell'area più adatta alle nostre necessità. Battiamo spiagge, rive di fiume, ponti ed innumerevoli piste false in cerca del luogo più consono. Nessun posto però è perfetto. O c'è vento o l'area non è accessibile o è allagata. La zona migliore che riusciamo a trovare è una bellissima ansa di fiume che quando la visitiamo sembra isolata dal vento. L'unico problema è che ci si può arrivare solo tramite una strada fangosa e parzialmente allagata che né la nostra auto né quella di Mo, mia suocera, possono affrontare senza impantanarsi. Abbiamo però una speranza. Uno degli educatori di Amit, il fratello di mio marito, è un esperto della zona, ha una macchina sportiva, forse lui potrà accompagnare mia suocera direttamente sulla riva del fiume. Mia nuora, però, non è convinta. Il giorno dello spargimento delle ceneri parte di prima mattina alla ricerca di un posto migliore, legato ai ricordi della coppia. Visita una spiaggia stupenda che suo padre aveva amato molto. Mia suocera alla fine però decide che preferisce la tranquilla ansa di fiume. La spiaggia, pur essendo bellissima e legata ai ricordi del marito, non è accessibile e mia suocera Monashi vuole unirsi allo spargimento delle ceneri, non solo osservarlo da lontano. Ci richiamo quindi tutti alla tranquilla ansa del fiume per disperdere le ceneri, ma prima parliamo con nostro figlio per spiegargli la situazione. Quindi gli avevamo parlato di Dadu, nonno Dadu, che la sua anima era volata in cielo, lo spirito in cielo, ma il corpo in terra. Però non gli avevo ancora spiegato tutto, ho visto quest'urne, ho detto adesso gli spieghiamo bene cosa succede al corpo. Dato che parte delle ceneri sarebbero state disperse in quel momento lì, e gli ho detto guarda adesso disperdiamo le ceneri, questo era il corpo di nonno Dadu e verrà disperso nell'acqua. Mi è sembrato che forse questa informazione gli fosse entrata da un'orecchia e gli fosse uscita dall'altra orecchia, ma non è stato esattamente così. Guida alla processione una macchina contenente mia suocera, Amit e il suo educatore. La macchina, che alla fine si rivela non essere particolarmente sportiva, prosegue lentamente tra le pozze d'acqua, riuscendo miracolosamente a non impantanarsi. Dietro di loro seguono mia nuora con l'urna contenente le ceneri in una borsina di tela, mio marito con carrellino per la mobilità di mia suocera e il resto del gruppo. Man a mano che ci avviciniamo all'ansa del fiume ci rendiamo conto che la spiaggia non è per niente riparata. Mio marito ed io l'avevamo solamente visitata in un momento di calma. L'aria è forte, sembra colpirci quasi in maniera orizzontale. La giornata però è bellissima e siamo tutti arrivati a bordo del fiume. Proviamo lo stesso a versare le ceneri. Una minoranza raggiunge l'acqua con successo, la maggior parte però ci si riversa addosso. La sento negli occhi, nella gola, la vedo sul mio cappotto, che ha cambiato addirittura colore. Tossiamo rumorosamente e mio figlio, che voleva tanto partecipare alla cerimonia, scappa da un lato. Imperterriti ci inginocchiamo verso il fiume e versiamo di nuovo le ceneri lentamente e da poca distanza per far sì che non si spargano ulteriormente in giro nell'aria. Partecipiamo quasi tutti allo spargimento, inclusa mia suocera. Alcune ceneri cadono in acqua, altre volano in aria e si riversano su di noi. «È parte dell'esperienza», dice mia nuora, alla fine, riparandosi dal vento. «Ha proprio ragione», penso io, tossendo e assaporando l'ultimo, imperfetto, incontro con mio suocero. Say it's true. They got a message. some synthesis, and I ain't got no money, and I ain't got no house. But I'm hoping to kick with the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high. È una puntata questa a cui io tengo moltissimo ed è il motivo per cui l'abbiamo anche intitolata così, Inno alla vita, proprio perché in questo periodo specifico, ovviamente, in cui stiamo vivendo, inutile ripeterlo, io credo che anche un certo tipo di storie che parlano di quanto alcuni pezzi della vita siano, che spesso consideriamo fuori dalla nostra idea di vita quotidiana, in realtà siano parte della nostra esistenza. E la storia che ci ha mandato Gioia è la storia di suo suocero e di suo figlio e di suo marito, secondo me raccontano molto molto bene quello che voglio dire. Pronto, ciao Gioia, buongiorno. Buongiorno, ciao. Come stai? Bene, tu? Beh, bene, bene, bene. Senti Gioia, tu vivi a Londra, giusto? Sì, abito a Londra. Senti, com'è la situazione a proposito dell'emergenza? Simile all'Italia, ci sono molti casi, molte persone all'ospedale, purtroppo si può ancora camminare in strada. Ok. Ma ad esempio tu, tuo marito, continuate a lavorare, fate da casa, siete al lavoro? Sì, no, noi lavoriamo da casa, ecco, lavoriamo entrambi da casa con il nostro computer, facciamo quello che possiamo. Certo. Poi c'è gente che ha molto lavoro in questo periodo, gente che non ne ha tanto. Da quanto stai in Inghilterra, Gioia? Io più o meno da 10 anni, con qualche pausa. Ok. Sì. Ok. Ma quindi sei cittadina inglese? No, no, perché... No, perché ero cittadina europea, quindi non avevo bisogno di chiedere la cittadinanza. Esatto. Inglese. Però adesso? Ecco, quindi adesso la chiederò, devo chiederla. Io ho abitato anche in Australia a un certo punto, quindi ho avuto una pausa e devo aspettare 3 anni dal momento in cui torno. Quindi posso chiederla l'anno prossimo. Ah, ok. Devo aspettare. Ok. Che cosa fai tu nella vita, Gioia, che ti porta a stare così in giro? Ma io ho fatto tanti lavori nella vita, adesso lavoro per un'università nel campo del marketing, quindi recluto studenti per questa università, vado fiere, parlo con gli studenti. Recluto è un termine bellissimo, che arriva chiaramente dall'inglese, no? Cioè arriva chiaramente, sì, da, so recruiting, ma in Italia sembra un arruolamento al militare. Tuo marito, o meglio i tuoi suoceri, sono indiani, cioè sono nati in India. Sì, sì, i miei suoceri sono indiani e sono nati a Calcutta e sono venuti in Inghilterra nel 68. Quindi la storia che ci ha mandato di tuo suocero risale a quanto tempo fa? Un mese fa. Ah, è recentissima. Nel senso che lui è mancato un anno fa, dico bene? Esatto. Però questa cerimonia si compie un anno dopo. Sì, c'è il funerale, poi dopo un anno c'è una cerimonia per ricordare la persona che è morta. Che è scomparsa. Senti, che tipo era tuo suocero? Era un uomo molto tranquillo, di pochissime parole, diciamo. Parlava molto poco, era molto paziente, a parte su certi temi su cui si scaldava molto e la gente si stupiva, perché di solito era proprio una persona di poche parole. Era un dottore, lavorava, ha sempre lavorato un sacco, ha lavorato anche dopo la pensione, perché gli piaceva il suo lavoro, gli piaceva aiutare la gente, lavorava anche nei fine settimana a volte. Senti Gioia, mi perdoni, io forse ho anche sbagliato la pronuncia, ma che cos'è il ghee o ghee? Il ghee è burro chiarificato, cioè il burro fritto, diventa più chiaro. Senti, ma qual è il significato, diciamo, il significato ultimo di questo rituale? Ecco, allora io questo l'ho chiesto anche a mia suocera. Il significato, lei mi ha detto, è ricordare la persona defunta, insomma, e pregare per la sua anima. E c'è un significato anche più profondo, ma lei non me l'ha spiegato. Mio marito mi ha detto che è anche una cerimonia in cui la comunità torna insieme e si pensa al prossimo in generale, quindi anche a curarsi. Quindi ha a che fare con il ricordo di una persona, ma anche col continuare a stare insieme tra le persone che sono rimaste in vita. Ok, chiarissimo. Senti, invece tuo figlio Luca come sta? Bene. Cosa fa adesso? Male. Cosa fa? Studia, fa le scuole? No, quanti anni ha? Ma 5 anni. Lui qua è già purtroppo alle scuole elementari, cosa che già gli insegnano a leggere e scrivere. Al momento non va a scuola, però ha i compiti a casa, deve leggere ogni giorno. Quando ho letto la tua storia, sin dalla prima volta in cui l'ho letta, mi è venuto in mente una cosa che ho visto dire da Umberto Galimberti, lo psicologo, filosofo, riguardo al dire le cose ai bambini. Cioè lui dice, quando muore il nonno o quando muore una zia, c'è la tendenza a lasciare il bambino a casa che non deve vedere. Invece lui dice, i bambini capiscono tutto e vedono tutto e hanno un loro modo di elaborare le cose. Quindi raccontate quello che succede ai vostri figli. Mi sembra che grosso modo voi abbiate fatto così alla fine con Luca. Sì, esattamente così, sì, perché i bambini in generale sono sensibili e hanno delle antenne, secondo me, speciali per le emozioni. Il mio figlio è particolarmente sensibile, quindi se i genitori sono tristi o nervosi, lui lo sente, e se non gli spieghi un po' che cosa sta succedendo... Certo, insomma, rimane sospeso, rimane sospeso. Gioia, senti, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e per la storia. Ti auguro di stare in salute, di stare bene. E quando vuoi mandarcene una, noi siamo qua a disposizione. Grazie mille, altrettanto. Ciao Gioia, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Oh life, oh life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. La puntata di oggi si intitola Inno alla vita e dopo la storia che ci ha raccontato Gioia, che l'abbiamo sentita direttamente dall'Inghilterra, torniamo a raccontare con un'altra storia che sembra quasi uno scherzo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. La puntata di oggi si intitola Inno alla vita perché le storie che ci raccontiamo dentro hanno a che fare proprio con quel confine sottile che divide la malinconia per una vita che finisce dalla gioia di quella che continua. E che la vita quindi celebra. La prossima storia è quella di un comico americano che è stato creduto morto e quando lo ha scoperto ci ha riso molto sopra. È la storia di Dave Meyer. State con noi. Dave Meyer è un comico americano di Chicago. La sua storia ce la racconta un suo carissimo amico e collega, anche lui comico, si chiama Blake. I due si sono incontrati a 20 anni nei locali di stand-up comedy. Blake era molto divertito da Dave, perché era un tipo molto strambo, era estroverso, era chiassoso. Era però anche un grande bevitore, racconta Blake. Per me a volte era quasi fastidioso, per quanto fosse sempre gentile con tutti, al punto che mi faceva fare una brutta figura al confronto. Io e lui eravamo sempre, sempre insieme. Un giorno Blake riceve una chiamata che dice che Dave sta molto male, è in coma. È accaduto tutto all'improvviso. Dave era diabetico e in qualche modo la sua glicemia era salita così tanto che il suo corpo si era praticamente spento. I suoi reni stavano collassando. Blake è andato a trovarlo in ospedale. Era difficile per lui vederlo in quello stato. Dopo 3 settimane in cui i medici cercavano di far tornare alla vita il corpo di Dave, un giorno dissero alla sua famiglia che probabilmente era meglio lasciarlo andare, spegnendo le macchine. A quel punto allora la famiglia ha deciso di invitare i suoi amici all'ospedale per dargli un ultimo saluto. Quando ho scoperto che non sarebbe uscito dal coma, racconta Blake, ho pensato, non posso andare. Non c'è modo per me di vederlo in quelle condizioni, non ce la faccio. E allora sono tornato a casa mia, dove all'epoca vivevo con altri 4 amici, comici, tutti amici di Dave. E su Facebook ho scritto questa frase, stasera, dopo che siete passati a salutare Dave, vi aspetto a casa nostra per una festa in suo onore. E così è successo. Abbiamo trascorso una serata intera, saremmo stati 50 persone. Abbiamo praticamente fatto una veglia funebre per Dave, in attesa della notizia ufficiale da parte della sua famiglia a proposito della sua scomparsa. Tutti sapevano che Dave sarebbe stato staccato dal suo supporto vitale quella notte stessa. E infine, un post su Facebook lo ha confermato. Riposa in pace, Dave Meyer, diceva. Da quel momento i suoi 1700 amici su Facebook hanno cominciato a postare proprio sulla pagina Facebook di Dave diverse frasi, elogi funebri, saluti, frasi come pensieri e preghiere per te, Dave, Oppure altre, come quella che ha ammesso una ragazza, sai che avevo una cotta gigantesca per te? Punto esclamativo. Un altro ha scritto, cerchiamo tutti di essere la versione di Dave Meyer di noi stessi. Io invece, dice Blake, scrissi soltanto, ti voglio bene, amico mio. Ma due settimane dopo, proprio il giorno della festa del ringraziamento in tutti gli Stati Uniti, sul profilo di Dave è apparso un post, all'improvviso, che diceva così. Ciao a tutti, attenzione allo spoiler, sono vivo. Firmato Dave. Quando quel post è apparso su Facebook, in cui Dave dichiarava di essere ancora vivo, i suoi amici hanno tirato fuori tutti quanti il telefonino nel bel mezzo del pranzo del ringraziamento e hanno letteralmente cominciato a urlare di gioia proprio sulla sua pagina Facebook. Quello che era accaduto è che i genitori di Dave alla fine non avevano voluto che gli venissero staccati i macchinari del supporto vitale, quindi lo trasferirono in un altro ospedale. E un paio di giorni dopo, suo padre entrò nella stanza e cominciò a parlargli come se lui potesse sentirlo e a un certo punto, forse Dave ha riconosciuto la sua voce. «Mi si sono aperti gli occhi», racconta oggi Dave. «Ero ancora intubato, quindi avevo tutto un casino di tubi che mi spuntavano dal viso e cercavo di parlare, ma siccome ero intubato la mia voce è uscita quasi sussurrata e quello che ho detto è stato... «Ma che cazzo?» Dave è rimasto in coma per un mese, è diabetico e ha fatto di tutto per non prendersi cura di se stesso nella sua vita, lo ammette anche lui. Non aveva prestato molta attenzione a ciò che mangiava, a ciò che beveva. L'ultima cosa che ricordava era di avere vomitato in un secchio e di avere pensato di avere un'intossicazione alimentare. E poi, dopo un mese, si è svegliato in un letto d'ospedale, completamente sconvolto da tutta la situazione. Ma il risultato è stato che si è trovato in quella strana situazione alla Tom Sawyer, quella in cui si è al proprio funerale, e puoi sentire tutte le cose che la gente dice di te. Puoi finalmente scoprire come sei visto e che cosa la gente si ricorderà di te. Dave non ha avuto la possibilità di guardare Facebook per un po'. Le sue mani non smettevano di tremare e non riusciva nemmeno a usare il telefono. Ci è voluto un altro mese per essere dimesso dall'ospedale. Ed è stato allora che finalmente ha deciso di leggere tutti gli elogi funebri che la gente aveva lasciato sulla sua pagina, che erano circa un centinaio. Dave lo ricorda ancora, era il giorno di Capodanno. E dopo che la festa era finita e tutti erano andati a dormire, nella casa dei genitori dove lui stava passando la sua convalescenza, è sceso nel seminterrato e si è seduto al tavolo della piccola cucina a scorrere per ore la sua bacheca di Facebook. In realtà... il fratello aveva scritto un post in cui diceva che non era vero niente, che Dave era ancora vivo e chiedeva silenzio e rispetto per lui e la famiglia. Ma il post aveva solo 3 commenti e 70 like. Probabilmente l'algoritmo di Facebook lo aveva letteralmente sepolto sotto la montagna di altri messaggi pieni di emotività e di lacrime. Mentre Dave continuava a scorrere tra i ricordi divertenti degli amici, ce n'erano alcuni molto tristi. Molti dei suoi amici erano devastati e si rivolgevano a Facebook come una sorta di terapia. Decine di persone dipingevano Dave come un amico devoto, il tipo di ragazzo che era lì con abbracci e consigli e birra ogni volta che ne avevi bisogno. E poi era arrivato ad un post scritto da un amico che l'aveva colpito molto. erano una decina di righe sotto una foto che li ritraeva insieme da giovani e diceva così: «Ciao amico, sono abbastanza sicuro che Keith abbia scattato questa foto proprio prima che ti dicessi che avrei lasciato la sua festa per andare a letto presto. E tu mi prendesti in giro. Il mio sorriso in questa foto è genuino al 100% perché ero così felice di essere sempre con te al college. E non ero solo io a sentirmi così. Ogni volta che andavamo in un fast food, ogni dipendente ti riconosceva e ti salutava. Abbiamo anche mangiato da Chipotle gratis perché tu conoscevi tutti. Grazie mille, amico mio, per avermi detto di non essere così duro con me stesso e poi esserti messo a ridere per come suonava strano, detto da te. Grazie per tutti i passaggi a casa. Grazie per essere stato il mio migliore amico. Pare che per una volta sia il tuo turno di andare a letto presto. Te lo sei guadagnato. Ci sentiamo presto. Ciao, Duffer». Dave Meyer oggi sta bene, sta molto bene, e di questa esperienza ne ha fatto uno spettacolo. È uno spettacolo comico, ma non solo. Si intitola Dave Meyer Coma Show. There is a song that I belong to. There hangs a light that comes and shines upon you. Bear off the warmth, bear off reminders of youth, or we can't stay here. Tear down the moon. Sun that takes away all my need. The night is deafening and brings on defeat. No, we can't stay here. No, I can't stay here. No, I can't stay here. Someone told me that I've run too far. La storia di Dave Meyer e probabilmente anche il suo spettacolo lo potete trovare online sicuramente, o dei pezzi del suo spettacolo, il Dave Meyer Coma Show, in cui lui racconta grosso modo tutto quello che gli è accaduto e parte di quello che vi ho raccontato. Noi però l'abbiamo ascoltata in uno dei programmi di storie che preferiamo, è This American Life. Se capite anche un po' l'inglese vi consiglio di ascoltarlo, le loro storie sono sempre sempre curatissime e meravigliose. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i vostri diari dalla quarantena. I consigli che vorreste sentirvi dare dagli amici, quelli veri. Sicuramente consiglierei un dottorato in Germania, soprattutto nei settori tecnici. Le dritte che non avete mai osato chiedere. Oggi un curriculum per l'estero deve essere soprattutto focalizzato sulla massima concisione e focalizzazione sulle proprie esperienze professionali. Le offerte di lavoro che non potrete rifiutare. Residenza ci ha contattato per una richiesta di infermieri per l'ospedale universitario Canonistica di Stoccolma. E se cercate casa? Standard abitativi un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. La cosa bella, spesso fai amicizia con i tuoi coinquilini, perché non sarai mai solo, ecco.

e quindi da questo punto di vista per me è il massimo. Abbiamo lavorato insieme per 3 anni, poi mi sono licenziata, ma ho continuato a seguirlo per altri 3 o 4 anni in tutta una serie di attività che mi chiedeva di fare e io gliele portavo avanti. Tra noi c'è sempre stato un rapporto di fiducia assoluta. Grazie davvero ad Anna Maria che continua a raccontare, questa è l'ultima settimana in sua compagnia, grazie a quelli che ci mandano i loro diari della quarantena a linea d'ombra@radio24.it, ma grazie a tutti quelli che, esattamente come la nostra ascoltatrice di oggi, esattamente come Gioia, ci hanno mandato e continuano a mandarci le loro storie legate a un confine, legate a un passaggio, legate proprio a una linea d'ombra. Grazie a Paolo Corleoni, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Mauro Pescio. Noi lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!